Portami per mano come un piccolo bambino tra le tue braccia. Accanto a te, prendimi la mano come un piccolo bambino vicino a te. Ai piedi tuoi, fammi respirare il profumo della tua presenza in me, Signore, fino a contemplare la tua gloria e ad ascoltare battere il tuo cuore. Portami per mano come un piccolo bambino tra le tue braccia, accanto a te. Prendimi la mano come un piccolo bambino vicino a te. Ai piedi tuoi, fammi respirare il profumo della tua presenza in me, Signore, fino a contemplare la tua gloria e ad ascoltare battere il tuo cuore. Fammi respirare il profumo della tua presenza in me, Signore, fino a contemplare la tua gloria e ad ascoltare battere il tuo cuore, nel tuo cuore, nel tuo cuore, nel tuo cuore. Fammi dimorare nel tuo cuore, nel tuo cuore, nel tuo cuore. Fammi dimorare. Stringimi la mano come un piccolo bambino, portami a te. Dove sei tu? Tienimi a te, dove sei tu? Per sempre.